si fa sera. Siamo ancora qui, noi due, noi soli, e il mare. Siamo solo noi due, a due passi dal mare. Quando è finita una lunga giornata e ci incontriamo più felici che mai, perché non ci vediamo un istante per tutto il giorno, ma quando si fa sera. Due passi dal mare, mentre la luna sta sorgendo per noi, e noi ci amiamo più felici che mai, e sentiamo che vale la pena di star lontano.